Torino, prima capitale, la mia città natale, mi ha insegnato a correre prima di camminare. Tra le vie del mio quartiere posso ancora respirare profumo di casa, di una seconda mano. Siamo figli di immigrati adottati da questa città per la nostra dignità. Non si accetta alcuna offerta, sei pazzo, né al Balloon, né a Porta Palazzo. Puoi comprare sti valori, sono una cosa pura. Il prezzo da pagare è vivere tra queste mura che difendiamo come tori. Casa dolce casa, ti saremo sempre debitori. Città che non si piega alla merda leghista, tentano invano, batte un cuore antifascista. Niente Padania, Savoia, non vogliamo boia. Questo è Torino, non è una mangiatoia. Torino è la città degli eroi della ThyssenKrupp, del grande Torino che riposa in pace lassù, di Pietro Micca, Primo Levi e la sua testimonianza, dei partigiani e della resistenza. Scambi di sguardi tra statua e la gran madre nascondono misteri ancora da svelare. Tra mix di odori, suoni, colori, nazionalità, culture, generazioni, gallerie che si diramano nel sottosuolo, il derby senza fine, tra Juve e Toro, musica, musei, opere d'architettura, frutto dell'amore tra arte e cultura. Abbiamo i parchi e l'asfalto, industrie e viali, alberati a fianco, i fiumi da metro, il caldo inferno, la fa d'estate e il gelo d'inverno. Le case popolari, palazzi reali, portici infiniti sfociano piazze monumentali. Beviamo dal Toretto, conviviamo con lo smog. E Torino, non New York, c'è il kebab, non lo dog. Torino è la città che piange le vittime dei bombardamenti del 43, risorta dalle ceneri come una fenice, eclissa le sette meraviglie, ma rimane a testa bassa. Rimane a testa bassa in segno di umiltà, rispetto, stringendo le vittime al suo petto. Nobiltà d'animo, gentile lo so, l'ho vista piangere fino a straripare il Po. Non importa il colore della pelle che si indossa, lei non sbarra la porta, ma porta una speranza che ha un piede nella fossa. Torino ama l'uguaglianza, città della vecchia scuola, della vecchia scuola, dove Next, Diego e Kipa segnano ancora. Nello stereo fischia il vento, urla la bufera, Michelino, Piazza Rossa, fino in barriera. Torino è la nostra città.